ali della fantasia, vola in cielo questa melodia, dedicata a te, solamente a te, vita mia. Vita mia, ogni stella tremula l'ascolta, ogni fiore in terra la raccolta, e le stelle e i fior canteranno in cor, vita mia. Vita mia, dice t'amo, questa melodia d'amore. Dice torna, torna presto qui sul mio cuore. Vola, vola e va, canzonetta d'amore, vola per il cielo, sui monti e sul mare, dalla luna tonda non farti incantare, vola dal mio amore, non ti fermare. È tornato maggio con le rose, son fiorite tutte le mimose, per dar pace al cuore ho sfogliato un fior, vita mia, vita mia. Al chiaror lunare m'addormento tra gli ulivi dal color d'argento, per sognare te qui vicino a me, vita mia, vita mia. Dice torna, torna presto qui sul mio cuore. Vola, vola e va, canzonetta d'amore, vola per il cielo, sui monti e sul mare, dalla luna tonda non farti incantare, vola dal mio amore, non ti fermare. Dice t'amo, questa melodia d'amore. Dice torna, torna presto qui sul cuore.